Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno, la trasmissione che ormai da oltre un anno vi accompagna quotidianamente nei vostri percorsi, la mattina di buon'ora e la sera in replica intorno alle 20.45. Prima di tutto un'informazione di servizio, diciamo la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. E oggi trattiamo uno di questi casi che ci è stato segnalato da un radioascoltatore lombardo, Diego Russo, che ha avuto alcune pendenze, diciamo così, alcune criticità con l'Enel. Buongiorno e benvenuto, Russo. Buongiorno. Allora, è bene specificare che Russo ha risolto il suo caso e, devo dirlo, ad onor del vero, a differenza di altre volte, senza l'intervento di Radio 24 e senza le nostre telefonate, che sicuramente non sono miracolose, ma a volte sbloccano situazioni incancrenite. Allora, Russo, vuole spiegare qual era il problema che lei ha avuto con l'Enel? Sì, allora, guardi, io da quando ho rogitato nel nuovo appartamento in cui dovevo entrare, insieme alla vecchia proprietaria abbiamo fatto il fax con la lettura del gas al momento del rogito per poter richiedere la voltura diretta delle bollette. A questo punto, da dicembre, io ho continuato a fare solleciti telefonici per ricevere documenti da firmare e da controspedire, documenti che poi mi sono arrivati a luglio. Quindi sono passati, diciamo così, 7 mesi dal momento in cui lei ha chiesto la voltura diretta dalle bollette al momento in cui ha avuto una risposta. Esatto, perché comunque io avevo continuato a chiamare il call center di Potenza, ma non mi sapevano dare una risposta, mi dicevano ci vuole tempo, provi fra 15 giorni, provi a richiamarci, per cui i 3 solleciti telefonici non sono le chiamate che ho fatto io. Sono soltanto le volte in cui è stata sollecitata poi la pratica. Ecco, allora fermiamoci un attimo, perché come dicevamo, alla fine l'acqua calda è arrivata in casa della famiglia Russo, ma il punto che noi vogliamo affrontare è come mai ci vogliono così tanti mesi e come mai la voltura diretta delle bollette, che in un primo momento era stata accordata da Enel, ci abbia messo così tanto tempo. Quindi non è un caso che colpisce soltanto la famiglia del nostro radioascoltatore, ma chissà quanti di voi in questo momento vi state immedesimando con Diego Russo e con la sua situazione. Io però, ovviamente, come faccio sempre in ogni mia puntata, non posso ascoltare una sola voce, cioè la voce di chi critica, ma anche la voce della parte, diciamo così, tra virgolette, che dovrebbe risolvere e dovrebbe lasciare che il dialogo sia sereno, e spesso così non è. Ed è per questo che do il buongiorno e il benvenuto alla dottoressa Aurora Viola, che è responsabile qualità e customer care dell'Enel. Buongiorno Viola. Buongiorno. Allora, intanto, come mai 7 mesi prima di dare una risposta attraverso documenti scritti? Allora, intanto 2 chiarimenti. Il signor Diego non è stato 7 mesi senza acqua calda, perché era la parte amministrativa che non andava avanti, ma sì, il servizio sì, c'era. Questo assolutamente lo diciamo e lo confermiamo, ma rincorrere la burocrazia, no, lei lo sa, chiaro, che è una delle cose peggiori che possa capitare ad un uomo. Non volevo giustificare, ma solo fare il chiarimento. L'altro chiarimento, e poi andiamo al fatto, è che non risponde il nostro call center di Potenza. Non esiste un call center di Potenza. Probabilmente, siccome a Potenza c'è una casella postale dove vengono spediti i documenti, allora il cliente chiaramente percepisce che Potenza risponde a tutto. In effetti i nostri call center sono in tutta Italia, e queste sono le 2 precisazioni. Call center in tutta Italia che rispondono per l'area di appartenenza, la regione di appartenenza, la provincia di appartenenza? No, è un sistema virtuale, risponde il primo operatore, esatto, disponibile, anche perché dobbiamo dare seguito a degli standard dettati dall'autorità come tempi di risposta, e quindi non possiamo permetterci l'area locale, ma il primo disponibile, che è formato chiaramente a rispondere per tutte le attività, risponde al cliente che chiama. Poi veniamo al caso del signor Diego. Effettivamente lui ha fatto una richiesta di fornitura su un altro cliente, quindi un subentro, come ha giustamente detto. Successivamente ha sollecitato l'attività ai nostri operatori, i quali si sono accorti che non avevano ricevuto la documentazione. Quindi a questo punto il signor Russo ha rinviato di nuovo tutta la documentazione. Nel frattempo, sull'utenza non del signor Russo, ma dell'inquilino del che ha venduto casa, del precedente proprietario, in qualche modo c'era una morosità. Quindi, intanto che noi davamo seguito alla sua richiesta, è partita la lettera di sollecito e poi di distacco al precedente inquilino. È qui che si è interrotta la fornitura e che poi abbiamo immediatamente riattivato, perché intanto avevamo messo a posto la posizione del signor Russo. Quindi non è un caso, devo dire che io gestisco anche tutti i reclami di Enel, quindi ho dei report che mi fanno vedere perché e come il cliente reclama, e diciamo che questo non è una criticità che abbiamo in modo ripetitivo, insomma. È stato veramente, si sono intrecciati due componenti, sicuramente una lavorazione tardiva in casa nostra, un non invio dei documenti, cioè che i primi probabilmente si sono persi dal punto di vista di postale, quindi un insieme di cose si sono incrociate e hanno dato seguito alla criticità. Allora, è chiarissima la voce dell'Enel che in buona sostanza ci dice: è un'eccezione che non conferma assolutamente la regola di buoni rapporti tra azienda e clienti. A questo punto, ho sentito l'una e l'altra campana, torno da Diego Russo. Allora, le cose sono state ben rappresentate dalla controparte a suo giudizio? Beh, no, sì, sicuramente. Cioè, io non posso discutere quello che è la loro organizzazione, così. Cioè, io ho parlato del call center di Potenza, in quanto effettivamente risulta lì l'indirizzo a cui mandare i documenti e tutto. Che poi loro abbiano un call center in tutta Italia, questo non lo so. Comunque, il quadro della situazione è quello. Ecco, quindi il quadro della situazione è corretto. Io volevo a questo punto tornare ancora una volta dalla dottoressa Viola, proprio per rimarcare questa cosa che abbiamo soltanto accennato, vale a dire delle persone che rispondono da ogni parte d'Italia per casi specifici. Cioè, noi più di una volta in questa trasmissione ci siamo occupati di lamentele, di forti critiche da parte degli utenti nei confronti di aziende che prima, a loro giudizio, a nostro giudizio, avevano un'anima e comunque anche una riconoscibilità con un nome ed un cognome, e oggi invece rispondono attraverso una voce che è sempre la stessa nonostante le inflessioni dialettali, che recita un leitmotiv che è più o meno il seguente: risponde l'operatore XYZ, cosa posso fare per voi? Allora, visto che lei rappresenta la qualità e appunto la soddisfazione del cliente da parte dell'Enel, è una scelta vincente questa, a suo giudizio? Ma diciamo che la scelta vincente è rispondere a tutta la tipologia dei nostri clienti, a tutti i target, per cui il vecchio modello, che comunque noi abbiamo mantenuto di presenza fisica sul territorio, funziona, ma non soddisfa tutta quella parte di clienti che invece vuole risolvere velocemente al telefono, quindi non ci potevamo permettere quell'unico modello. Io veramente sono sempre dall'altra parte, sono il cliente più rompiscatole di Enel, perché mi fingo cliente per vedere le cose come vanno, e proprio perché ci rendiamo conto che a volte i nostri operatori, vuoi per fretta, vuoi perché hanno la giornata storta, poi sono sempre delle persone, non sono delle voci che rispondono al telefono, e magari non rispondono propriamente per come gli diciamo di rispondere, per come gli facciamo formazione. Abbiamo creato una struttura che sta proprio la nostra unità di controllo, che si finge cliente, che fa delle mystery call e quindi verifica puntualmente chi ha risposto in un determinato modo e si interviene su quella persona e si rifà un refresh formativo oppure gli interventi necessari. Quindi non è che non si mandano, diciamo così, via. No, non si mandano via, a meno che non c'è proprio un dolo, insomma, certo, di comportamento. Certo. Stiamo premiando molto in azienda la risoluzione del problema e non la risposta telefonica. Cioè, io ti premio se quel cliente non ha più bisogno di chiamare nell'arco di tempo di un mese, perché poi se ha un'altra esigenza è chiaro mi deve chiamare, piuttosto che rispondere velocemente al telefono, che è quella cosa che portava poi gli operatori a dire ok e poi riattacco. Benissimo. No? Fermo restando però una forte presenza fisica di Enel sul territorio per tutte quelle persone che hanno bisogno del contatto. Bene, abbiamo scoperto anche che l'Enel ha degli 007 al proprio all'interno che hanno il compito, diciamo così, di monitorare la situazione, speriamo bene, anche perché i disservizi lamentati dai nostri radioascoltatori nei confronti dell'Enel non sono pochi, e quindi torneremo ancora su questi argomenti. Ringrazio la dottoressa Viola dell'Enel, Valeria Bernardi in regia e Laura Faggin in studio, però vi ricordo anche altre due cose. La prima, la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. La seconda è il mio indirizzo blog http://robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. È una modalità sempre più usata per dialogare in rete. Sarete benvenuti se volete visitarlo e se vorrete parlare con me. Da Roberto Galullo una buona giornata e a risentirci domani.